Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, o anche, se preferite, per una società non violenta. Questa è la puntata numero 458, nella quale parleremo di mantelli. Mantelli di boschi e foreste, cioè mantelli del pianeta, e pellicce. Mantelli di individui animali. Ci sarà spazio però anche per qualche curiosità, buona musica e ottima cucina, naturalmente. Vegan. Speriamo di avervi incuriositi. Qualche mese fa vi abbiamo raccontato della resistenza messa in campo in Germania nella foresta di Hambach per fermare le ruspe e le motoseghe e impedire l'abbattimento del bosco a opera della compagnia elettrica RWE intenzionata a sfruttare l'area come miniera di carbone. Adesso ci spostiamo in Polonia, dove da mesi un manipolo di persone coraggiose resiste per difendere la foresta Białowieża, l'ultimo fazzoletto di foresta primaria che resiste in Europa al confine tra la Polonia e la Bielorussia. È la casa degli ultimi esemplari di bisonte europeo. A Białowieża le querce rocciose, i pini rossi, i tigli plurisecolari svettano altissimi, giganteschi l'uno accanto all'altro. Sono una stupefacente varietà di specie arboree che ricorda quella di una giungla tropicale, con la differenza dei colori e delle forme che sono quelle tipiche dei nostri climi temperati. In questo incanto, nel 2017, il governo di Varsavia ha tagliato 190.000 metri cubi di legna per farne bancali. Sul venerdì di Repubblica del 2 di novembre è stato pubblicato un bell'articolo che approfondisce la questione, intervistando gli attivisti di Occupy Białowieża, che appena le motoseghe sono entrate in funzione hanno deciso di presidiare gli alberi. Trascorrono notti all'addiaccio in attesa che arrivino all'alba i tagliaboschi, si incatenano ai macchinari dell'ente forestale, manifestano nelle grandi città polacche, vengono poi anche arrestati e processati solo per essersi magari sdraiati a terra a impedire il passaggio dei camion carichi di tronchi. C'è chi per questa lotta ha perso il suo lavoro. Sono persone qualsiasi, attori, insegnanti, operai, impiegati, commercianti, che a rischio della propria incolumità testimoniano e denunciano i crimini contro questo ultimo pezzo di foresta primaria in Europa. Un organismo vivente, un macrocosmo, casa di bisonti, lupi, picchi, linci, alci, cervi rossi, gufi reali e i più piccoli allocchi del pianeta. Il danno è gravissimo, come spiega un attivista, ma se tutto si fermasse qui, in un paio di secoli la foresta saprà rigenerarsi da sola. Il discorso cambia se la forestale polacca deciderà di rimboschire con specie aliene. A quel punto il danno diventerebbe irreversibile. Vogliono trasformare la foresta primaria in un banale bosco ceduo, continua questo attivista, in modo da impedirci di ottenere che venga dichiarata parco naturale, perché se ci riuscissimo la foresta diventerebbe intoccabile. E noi della redazione di Restiamo Animali naturalmente speriamo che la più antica e selvaggia foresta d'Europa, casa di tante specie animali non umane, resista. non sarà semplice in un tempo in cui sembra dilagare la convinzione che la natura ha bisogno dell'uomo per sopravvivere e che la nostra specie ha diritto di manomettere tutti gli altri sistemi viventi. Anche in Italia non è un momento positivo per boschi e foreste. Facciamo un po' di storia. Nell'estate 2017 è stata approvata in Italia una riforma sui parchi che le più serie associazioni ambientaliste hanno bocciato assieme a insigni esperti biologi e naturalisti. La nuova legge rappresenterebbe una sorta di accozzaglia di concessioni e favoritismi nei confronti dei privati, di lobby potenti come quella dei cacciatori e di categorie come quella degli agricoltori. La politica, sempre secondo le persone che hanno criticato questa riforma, entrerebbe a gamba tesa nella gestione dei parchi, come una ruspa in una foresta vergine, per l'appunto, con protervia e ignoranza e con l'unico obiettivo di favorire interessi economici e speculazioni. Di fronte a un aumento galoppante dell'effetto serra, alla minaccia di estinzione di migliaia di specie animali e vegetali, importantissime per l'equilibrio di interi habitat e per il sostentamento umano, non bastava la nefasta legge del 2017 sui parchi italiani, adesso ci si è messo anche il maltempo. I boschi tra Veneto e Trentino Alto Adige sono stati letteralmente spazzati via. Le immagini che sono circolate in rete sono assolutamente scioccanti, una immensa distesa di alberi schiantati a terra o spezzati. I boschi di Mario Rigoni Stern, denuncia il presidente del Consiglio regionale del Veneto, non ci sono più. 100 anni dopo che la Grande Guerra aveva devastato l'altipiano, adesso è stata la natura a massacrarla con una forza devastatrice che ha lasciato dietro di sé una desolazione indicibile, una devastazione resa ancora più dolorosa dal silenzio in cui questo evento, cioè lo sradicamento di migliaia e migliaia di alberi nel bellunese, è stato confinato dai grandi mass media e dalle televisioni nazionali. Si è parlato tantissimo dei panfili di Rapallo, della strada provinciale di Portofino e scarse, se non addirittura nulle, sono state le notizie di quanto è accaduto ai boschi nel nord-est. Queste sono le parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. La nostra redazione ha deciso di dare spazio agli effetti nefasti di questo cataclisma che ha gettato il mondo vegetale e il mondo animale in uno stato di prostrazione indescrivibile. Il servizio è a cura del nostro Zenone Sovilla. Purtroppo potrebbero essere diverse migliaia gli animali uccisi da frane, inondazioni e soprattutto dagli alberi sradicati dal vento fortissimo a fine ottobre sulle Dolomiti. Lo spiega Mountain Wilderness chiedendo che venga chiusa subito la caccia in tutte le province colpite dal devastante maltempo, cioè il bellunese, l'area più toccata, il Trentino, il Sud Tirolo e le zone montane del Friuli, del Vicentino e del Trevigiano. La foresta, scrive il sodalizio, è come una città, è un insieme di vite e di significati che l'uomo ancora non è riuscito a comprendere nella sua complessità. In queste enormi distese sono rimasti uccisi decine di migliaia di animali selvatici, non solo i grandi ungulati come cervi, caprioli e daini, ma anche altra pregiata fauna selvatica. Dunque è inconcepibile, in una situazione naturalistica tanto devastata, permettere lo svolgimento della caccia. Quanto è sopravvissuto della fauna selvatica, probabilmente pochi esemplari di animali per ogni area colpita, va lasciato recuperare. Tutto il mondo animale deve prepararsi ad affrontare un duro inverno. Dovrà riadattarsi a un territorio sconvolto e irriconoscibile, anche impercorribile. Piogge che hanno ingrossato rapidamente i corsi d'acqua e vento anche oltre 200 km orari hanno travolto una fascia alpina che grosso modo si estende per circa 150 km da est a ovest. Foreste abbattute, come dicevamo, case scoperchiate, locali allagati dal fango, strade distrutte da frane e da esondazioni, acquedotti danneggiati, abbattute dal vento anche intere linee elettriche di cui da anni le comunità locali chiedevano l'interramento. Il sociologo Diego Cason, del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, da noi intervistato, sottolinea fra l'altro l'urgenza ma anche la complessità di un intervento per rimuovere rapidamente i milioni di alberi caduti, per evitarne il deperimento e per ripristinare via via la vita delle foreste. Solo questo intervento potrebbe costare oltre 1 miliardo di euro. Inoltre, Cason ribadisce la necessità che alla fragile provincia di Belluno siano finalmente riconosciuti strumenti di autogoverno simili al Trentino e al Sud Tirolo autonomi, ciò per assicurare politiche e risorse adeguate alle esigenze di un territorio di montagna in crisi e a rischio spopolamento, tanto più dopo il disastro dei giorni scorsi. In proposito, intervistata dal Corriere delle Alpi, Paola Favero, tenente colonnello dei Carabinieri Forestali, sottolinea i danni all'ecosistema, perché con l'azzeramento di interi boschi si azzera anche la biodiversità, fiori, funghi e animali. Si cambia perfino il clima locale, si influisce sul regime idrogeologico, si possono favorire dissesti, frane e valanghe. E nel frattempo ci si interroga sul possibile nesso causale tra un evento atmosferico di simili dimensioni e i cambiamenti climatici causati dall'inquinamento. Secondo diversi studiosi, il nesso c'è. Ciò anche alla luce di studi riguardanti l'effetto del riscaldamento delle acque di mari e oceani sulla qualità e sulla potenza di fenomeni atmosferici come quello che si è abbattuto sulle Dolomiti. Sempre l'ufficiale dei forestali, Paola Favero, su questo tema spiega in questa intervista al Corriere delle Alpi che quanto accaduto è il chiaro, indiscutibile segnale che gli antichi equilibri sono in crisi, che i nostri boschi stanno vivendo un tempo diverso, dove la loro resilienza non è più tale, dove fattori ambientali troppo diversi da quelli che hanno accompagnato la loro vita stanno minando l'ecosistema foresta, impreparato ad affrontarli perché non ha avuto il tempo di prepararsi. I tempi accelerati che l'uomo ha imposto alla terra non danno modo a questi meravigliosi organismi chiamati alberi di adattarsi, di prepararsi. Il cambiamento li travolge. Periodi di caldo prolungati, quando le foreste dovrebbero prepararsi al riposo invernale, piogge violente improvvise e troppo abbondanti, venti che questa volta hanno superato i 150 km orari, più di quanto qualsiasi struttura forestale, anche la più evoluta, può sopportare. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Anche questa settimana la rubrica di cucina Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, sarà a tema e stavolta la ricetta è dedicata agli alberi. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Per fare un tavolo Ci vuole il legno per fare il legno, ci vuole l'albero per fare l'albero, ci vuole il seme per fare il seme, ci vuole il frutto per fare il frutto, ci vuole il fiore, ci vuole un fiore. Restando in tema di alberi, lo sapevate che ce ne sono alcuni che si possono mangiare? Ad esempio, dalla corteccia interna di alcuni alberi si possono ricavare farine: tiglio, faggio, la betulla, il pioppo e persino l'abete alpino. Anche alcuni germogli delle foglie si possono mangiare in insalata. Altre foglie invece si possono utilizzare per fare infusi e decotti. Ma non temete, la ricetta di oggi, ispirata agli alberi, non avrà ingredienti difficili da reperire. Faremo delle oladi, frittelle russe molto simili ai pancake, ma rivisitate in veste autunnale, e le condiremo con la linfa dell'acero nero, più semplicemente conosciuto come sciroppo di acero. Gli ingredienti per 4 persone per gli oladi al cacao e castagne con composta di arance e sciroppo di acero sono 100 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, 80 g di farina di frumento, 20 g di farina di castagne, 20 g di cacao amaro in polvere, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato, qualche goccia di succo di arancio, marmellata di arance, sciroppo di acero e 4 noci tritate. In una ciotola unite l'acqua, l'olio, lo zucchero di canna, la farina di frumento e quella di castagne, il cacao amaro, un pizzico di sale e alla fine aggiungete il bicarbonato. Sopra quest'ultimo fate cadere qualche goccia di succo di arancia e appena farà reazione creando delle bollicine di aria, mescolate con una frusta. Amalgamate bene fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Con un pennellino in silicone passate un filo di olio in una padella antiaderente. Fate scaldare bene e versate un cucchiaio di impasto. Fate cuocere da entrambi i lati e togliete dal fuoco. Farcite con la marmellata di arance e piegate a metà. Quindi servite calde con abbondante sciroppo di acero e guarnendo con delle noci tritate. Non ci sono più le stagioni di una volta e quindi il tema musicale della puntata è dedicato a natura ed ecologia, passando da Björk ai REM a Joni Mitchell. Il brano su cui poniamo l'attenzione del 1971 da un album storico, What's Going On di Marvin Gaye, e si chiama appunto Mercy, Mercy Me The Ecology. E già in quegli anni scriveva: dove sono finiti i cieli azzurri? Olio sprecato sugli oceani e sui nostri mari, pesce pieno di mercurio, radiazioni sotto la terra e nel cielo, gli animali e gli uccelli che vivono nelle vicinanze stanno morendo. Ascoltiamo quindi questa canzone, che è un classico della musica black. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Oh, Alcol, truffe e gelosia, il lato umano degli animali. E questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Venerdì di Repubblica del 2 novembre. Si tratta dell'anticipazione di un libro, Animale sarai tu, del biologo Alessandro Montemaggiori, pubblicato dalla casa editrice Orme, scritto per spiegare come nel bene e nel male non siamo poi così unici noi umani. A questa redazione veramente sembra abbastanza curioso dover continuare a insistere sulla sensibilità degli altri animali, sulla loro capacità di avere una cultura, di provare dolore, piacere e altre emozioni. Pensiamo che in fondo siamo tutti parte del regno animale. Quanti secoli ancora dovrà andare avanti questa operazione di convincimento o di autoconvincimento che non riesce però a scalfire pregiudizi evidentemente inattaccabili? Oppure semplicemente non ci fa comodo credere di appartenere a un'unica grande famiglia, perché poi sarebbe troppo complicato giustificare l'incessante sfruttamento di tutti gli altri animali. L'articolo tuttavia è piacevole da leggere, sicuramente lo sarà anche il libro. Si fanno alcuni esempi simpatici, come quello di un uccello africano, il drongo coda forcuta, che fa da sentinella ai suricati mentre cercano cibo nella savana, avvisandoli con delle grida molto potenti nel caso in cui arrivino i predatori. Così i suricati possono scappare e rifugiarsi nelle loro tane. Quando al drongo però viene fame, cosa fa? Lancia un falso allarme e approfitta del cibo lasciato dai fuggitivi. Per non farsi scoprire, il drongo non esagera mai con gli allarmi e talvolta, invece di lanciare il suo tipico allarme, imita alla perfezione il grido d'allarme dei suricati stessi, quindi un comportamento scaltro perfettamente adattato alle circostanze. Siamo gli unici ad avere diverse personalità. Uno studio sulle cinci allegre ha portato a scoprire che alcune sono audaci ed esplorano, mentre altre sono prudenti e non osano allontanarsi. Questa differenza, questa varietà, darà loro la possibilità di sopravvivere come specie nel caso in cui venisse a mancare la consueta fonte di cibo. In quel caso, naturalmente, gli elementi audaci saranno quelli che potranno salvare la specie. Inoltre non siamo gli unici a restare sconvolti dalla morte dei nostri simili, anche questa è una scoperta scientifica illustrata nel libro Animale sarai tu. Anche gli elefanti, gli scimpanzé, le orche e i maiali selvatici hanno atteggiamenti simili ai nostri, restano accanto al morto, addirittura cercano di rianimarlo, sicuramente lo vegliano anche per giorni e giorni. Ma la somiglianza più curiosa è forse la passione per l'alcol. Il kereru, un uccello nuovozelandese simile a un grosso piccione, è noto per la sua ingordigia di frutti fermentati e quindi alcolici. A fine estate nei parchi della Nuova Zelanda bisogna fare attenzione perché i kereru sbronzi piombano giù dai rami e ti cadono in testa. Anche i moscerini della frutta si danno all'alcol, ma loro lo fanno soprattutto quando vengono respinti dalle femmine. Moscerini della frutta nei momenti critici si danno all'alcol, è bene che il movimento animalista invece resti sobrio per continuare a vigilare sul comportamento dei grandi marchi della moda. Il servizio da Milano è della nostra corrispondente Roberta Marino. Perescada, uccidere animali è tornato di moda. Questo è il titolo del volantino che attivisti e attiviste provenienti da varie zone del nord Italia hanno distribuito sabato 3 novembre in corso Matteotti a Milano, davanti alle vetrine del negozio Escada per protestare contro la decisione dell'azienda di moda tedesca di riprendere a vendere pellicce. Già in passato, infatti, a partire dal 2007, Escada era stato oggetto di numerose pressioni internazionali, che si erano concluse 3 anni dopo in seguito alla dichiarazione di interrompere definitivamente la vendita di pellicce e inserti a tempo indeterminato. Una promessa presto disattesa. A partire dallo scorso anno, negli scaffali dei negozi sono ricomparsi capi di abbigliamento con pellicce di procioni, cincillà, visoni, volpi, conigli, caracul e soprattutto agnelli, considerati un sottoprodotto dell'industria della carne. Animali tenuti prigionieri per mesi in gabbie negli allevamenti e che, proprio in questa stagione, vengono uccisi mediante tecniche come elettrocuzione genitale, colpo alla nuca, soffocamento con la camera gas. Aderiamo alla campagna internazionale oggi, hanno spiegato gli attivisti, non per chiedere gabbie più grandi o metodi di uccisione meno violenti, ma per protestare contro un'industria che trae profitto da uno sfruttamento mascherato da un'eleganza socialmente condivisa. Sentiamo Enrico, attivista del gruppo Quaglia. La chiamata è partita da questa, diciamo, coordinamento, campagna contro l'industria della pelliccia tedesca, che si chiama OGPI, offensiva contro l'industria della pelliccia, che è il gruppo che storicamente negli anni passati ha promosso e condiviso tutte le grosse campagne internazionali contro i grossi marchi della moda per la vendita di pellicce. È un gruppo che anche in questi anni, nonostante, diciamo, sia un po' scemata l'intensità di questo tipo di campagne a livello internazionale, ha continuato ad esistere, ha continuato a fare ricerche e nello specifico contro Escada, essendo un obiettivo di lunga data, ovviamente hanno continuato a controllare quelli che erano i prodotti venduti da Escada, quindi immediatamente quando l'azienda ha tentato di ricominciare a vendere pellicce è stata scoperta e quindi è stata lanciata questa chiamata, che sicuramente appunto oggi ha preso forma qui in diverse città austriache e tedesche e probabilmente anche da qualche altra parte. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 459 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.